America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This is CNN's coverage of Kane versus Pence in their only vice presidential debate. Bene, siamo arrivati al dibattito fra i vicepresidenti in questa corsa elettorale, al confronto fra Tim Kaine, candidato con Hillary Clinton, e Mike Pence, candidato con Donald Trump. Si sono scontrati alla Longwood University a Farmville in Virginia ieri notte. Sentiamo alcuni stralci. Donald Trump started this campaign in 2014. He said, "If I run for president, I will absolutely release my taxes." Ecco, Kaine attacca subito sulle tasse, è uno dei problemi più gravi di Trump, perché sappiamo che non vuole rivelare le sue dichiarazioni sul reddito, e dice, insomma, Trump ha cominciato la campagna assicurando che se avesse corso per la presidenza avrebbe reso pubblico il suo rendiconto fiscale, e quindi ha tradito la sua prima promessa. Secondo, nel dibattito con Hillary è stato accusato di non aver pagato le tasse e ha risposto, questo significa che sono furbo, e forse furbo non pagare per l'esercito, per i veterani, per gli insegnanti. E Pence, di rimando, risponde. Sentiamo. Donald Trump is a businessman, not a career politician. He went through a very difficult time, but Donald Trump è un imprenditore, non è uno spietato uomo della politica. Ha passato un periodo difficile 20 anni fa, ma il nostro sistema fiscale incentiva l'imprenditoria e lui ha sfruttato in modo intelligente e ha ricreato un business che oggi vale miliardi di dollari e ha dato lavoro a decine di migliaia di persone. E poi in politica estera è stato Pence a passare all'attacco. Il Medio Oriente, ha detto, è fuori controllo, guardate quel che succede in Siria, tutto questo è il risultato della politica estera fallimentare di Hillary. Kaine risponde, sentiamo. When Hillary Clinton became Secretary of State, Governor Pence, do you know that Osama bin Laden was alive? Vorrei ricordare a Pence che quando Hillary è diventata Segretario di Stato, Osama bin Laden era ancora vivo, poi è stata lei a contribuire alla sua cattura. Negli anni successivi ha siglato l'accordo con l'Iran per il disarmo nucleare, ha ridotto le truppe americane al fronte, solo 15.000 soldati sono rimasti al fronte dai 175.000 che erano. Ecco, questo il tono del confronto. Non c'è dubbio che Pence ha fatto meglio del suo avversario Tim Kaine, ma soprattutto ha fatto molto meglio del suo capo Donald Trump. Questo è il fatto interessante e curioso, dimostrando che la preparazione in un dibattito, come in ogni cosa, è tutto. Il vantaggio di Pence in un primo sondaggio a caldo non è molto forte, ma è pur sempre un vantaggio, il 48% contro il 42% di Kaine, questo secondo CNN. Ecco, una buona parte di questo risultato è dovuta a una scelta strategica, perché Pence aveva deciso di non abboccare alle provocazioni continue di Tim Kaine, che attaccava un po' su tutto, sul messaggio di divisione fra le comunità afroamericane di Trump, su quello contro i messicani, contro gli islamici, e sulle lodi che il candidato repubblicano ha tessuto più volte di Vladimir Putin. Kaine all'inizio era più nervoso, interrompeva in continuazione, un po' come faceva Trump nel suo dibattito con Hillary, mentre invece Pence è apparso più simile a Hillary, era serafico, preparato, sorrideva mentre Kaine lo attaccava. Ecco, dobbiamo chiederci se questo poi aiuterà davvero Trump, e non è detto che davvero questo succeda, perché il successo di un vicepresidente in un dibattito non necessariamente si traduce in un vantaggio per il candidato alla presidenza. Infatti quello di ieri, in base ai primi sondaggi, sembra confermarlo. Il 53% degli interpellati, sempre secondo CNN, ha detto che il dibattito non li ha aiutati a decidere. E a conferma che Pence ha fatto bene, ma forse non ha aiutato Trump, il 29% degli interpellati ha detto che voterà per Hillary dopo il confronto, e solo il 18% per Trump. Ecco, chissà, forse per questo alcuni maligni fra i commentatori nel post dibattito sostenevano che Pence, autorevole, presidenziale, conservatore, che forse, come dire, ha fatto sognare i repubblicani che magari non si identificano con Trump, aveva più in mente un suo posizionamento per il 2020 che una difesa a oltranza del suo compagno di corsa Trump. Ecco, a questo punto ci si prepara già al dibattito fra Trump e Hillary Clinton di domenica prossima. Sarà quello il vero banco di prova per confermare il vantaggio di Hillary o per consentire un recupero di Trump in queste elezioni, che sono state non solo incredibili ma straordinariamente volatili. Ecco, Ecco, di sicuro sappiamo dal figlio di Trump, Eric, che ieri sera ha parlato, che questa volta il padre si sta preparando per poter rispondere, per poter eludere le risposte e per non abboccare alle provocazioni, proprio come ha fatto Pence. Perché? Beh, perché Trump si è reso conto che a questo punto, se perderà il secondo dibattito, avrà quasi sicuramente perso tutto. Ci ricordavano i commentatori ieri sera che non c'è mai stata un'elezione in cui un candidato ha perso entrambi i dibattiti e poi ha vinto alle elezioni di novembre. E quindi Trump dovrà fare buon viso a cattivo gioco, dovrà studiare, dovrà prepararsi, anche perché se per caso diventasse presidente, beh, comunque dovrà sicuramente studiare molto di più di quello a cui è stato abituato finora. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più nei più difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, questi vicepresidenti in genere sono personaggi anonimi, li conosciamo davvero nel corso del dibattito, perché fino a questo momento, beh, non si parlava molto di loro. E dunque vorrei prendere lo spunto, per ispirarmi alla canzone, da una dichiarazione che rese famosa l'ammiraglio James Stockdale. Pensate, era il compagno, sconosciuto naturalmente, ormai chi se lo ricorda, ma era il compagno di corsa di Ross Perot, candidato indipendente nel 92. Stockdale era un veterano di guerra in Vietnam, aveva un'esperienza politica nulla, e scelse di esordire al dibattito con Dan Quayle con questa frase: Who am I? Why am I here? Chi sono? Perché sono qui? Restò famosa, e dunque, prendendo lo spunto da questo Who am I, chi sono, vi propongo dei Linkin Park. Who am I è il singolo con cui hanno lanciato il loro nuovo album per il 2016. Who am I dei Linkin Park. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!